Pane, burro, rock and roll, 7 e 30 minuti primi, quasi 31. La nostra è un'astronave che vi porterà dritti alle 9 del mattino. Abbiamo lanciato la proposta di petizione per far iniziare le scuole italiane alle 9.30, l'ha lanciata una studentessa e la petizione viene subito appoggiata da Carla, la professoressa rock and roll. Ci siamo quasi, siamo già a 2 firme. Salutiamo Ari 95, contento dei Green Day, chiede strombazzata, ecco là. Abbiamo il detto del giorno, puntuale, arriva anche quest'oggi. Eletti sono coloro per i quali le cose belle non hanno altro significato che di pura bellezza. Oi la la! Mentre io ci tengo a invitarvi a iscrivervi al provino per diventare musicista rock con la bocca. O meglio, volevo puntualizzare una cosa. È ormai da quasi una settimana che abbiamo iniziato ad ascoltare i primi provini, quindi i primi radioascoltatori che si cimentano nel suonare lo strumento con la bocca. Ho letto un paio di commenti per i quali sembra che voi non... cioè sembra che... provo a dirlo in italiano, ci provo, aspettate. Sembra che voi là fuori pensate che questi provini sono fatti finti da noi, cioè che la gente che mandiamo in onda sia gente della redazione. Invece no, sono altri ascoltatori come voi. Questo per dire anche a te, amico, che hai sempre voluto suonare uno strumento e a oggi non ce l'hai ancora fatta, partecipa al corso per diventare musicista rock con la bocca, non ti vergognare. È gente a caso che scrive al 335-100-7777, scrive rock con la bocca sì e viene automaticamente iscritto al corso, virgola. A proposito, Nora, se sei ancora all'ascolto, ieri abbiamo perso il tuo numero di SMS, quindi la tua iscrizione non era valida. Perdonami, se puoi rifallo. A voi che state guidando, non dedico questa canzone che si chiama Streets of Dream, altrimenti vi addormentate e succede un casino. Per tutti gli altri, Rainbow, buon ascolto! Iscrivetevi al corso! È gratis, su, braccine corte! Tonight. Riciclare è bello. Riciclare è sacrosanto. So di sfondare una porta aperta perché lei adora il riciclo. Sì, perché sprecare? Ma cos'è questo? Questo tono così sarcastico? No, questo doppio senso? No. È così evidente? No, a lei piace riciclare, è giusto che sia così, è una cosa buona e giusta. Mi trova di seconda mano, lo dica, no. Lo dica. No, io volevo solo presentare lo strano ma vero di quest'oggi, le notizie scartate dalle altre testate giornalistiche raccattate dal cestino dalla nostra redazione. L'impossibile ma vero di pane, burro e rock and roll. Vuole sentire il titolo di quest'oggi? Ci tengo molto. Si tenga forte, USA, dentista ballerino trapana volto ad una paziente. Accidenti. Sì. Mi lascio indovinare. Prego. Probabilmente in una sua precedente vita è stato un ballerino con i fiocchi, ma in questa sua ultima incarnazione come dentista sembra essere la negazione in persona. Uno specialista statunitense, intento ad operare un'assidua cliente, si è scatenato in una danza sfrenata mentre operava al ritmo di Car Wash. Il dentista, inizialmente divertito, è poi sbiancato quando, a seguito di un movimento poco controllato, ha letteralmente sfregiato il volto della malcapitata cliente. La donna, sconcertata ma soprattutto spaventata, si è ritrovata con il volto coperto di sangue ed ora, giustamente, reclama giustizia. La punta del trapano, che per fortuna non le ha danneggiato irreparabilmente un occhio, le è rimasta conficcata per 3 giorni sotto lo zigomo. Per estrarre il pezzo di metallo, la poveretta si è dovuta sottoporre a un'operazione chirurgica. Ora, a titolo di risarcimento, chiede $600,000. Io ho come il sospetto che quel dentista non ballerà più in ambulatorio. Ho paura di sì. Complimenti al dentista statunitense. E voi, dentisti all'ascolto, piuttosto spegnete la radio, ma non mettetevi a ballare. Mentre si lavora, non si balla. Thank you. got a little more, but it only goes so far. There's a lot of change in others' mind when all it sees is the hiring time. There's the light on the color bar. That's just the way it is. Some things will never change. That's just the way it is. That's just the way it is. The way it is. Bruce Hornsby and the Range. 7:43 minuti primi, questa è la colazione di Rock FM con l'Ariel e Frick Spadino e ovviamente tutti voi che continuate a intervenire. Bravi, complimenti a quelli che si sono iscritti al provino per diventare musicisti rock con la bocca, in particolare al buon Alberto. Allora, un po' di segnalazioni ho da fare, però prima volevo ringraziare Leonardo, un amico che ci scrive via mail, quindi ad ariel@radiorockfm.com, indirizzo che vi consiglio di utilizzare. Spesso e volentieri usate info@radiorockfm.com, è una mail che prima o poi mi arriva, però fa un giro strano, quindi vi consiglio, voi che contattate via posta elettronica, ariel@radiorockfm.com. Leonardo ci ascolta dalla Spagna, da quello che intuisco dalla mail letta frettolosamente, ma è colui che ci sta facendo diventare enciclopedici. Questo è il compito che si è preso lui. Che forti radioascoltatori di Pane, Burro, Rock and Roll che si pigliano i compiti. Bravi! Ovvero ci sta costruendo, sta mettendo a posto la pagina su Wikipedia dedicata a Rock FM, dedicata a Pane, Burro, Rock and Roll, quindi lo ringrazio particolarmente. Bravo Leonardo, continua così. E spediscici, che ne so, una paella dalla Spagna, cosa può spedirci? Non so, vabbè, ci penseremo. Altri messaggi random. Frick, il difficile non è essere intelligenti, ma sembrare di esserlo. Salutiamo. No, questa no, questa è forte. Giorgio da Bollate, non leggo il messaggio, però ti saluto. Mike ci chiede se quest'oggi potessimo cambiare il titolo e chiamarci Acqua, Aspirina e Rock and Roll. Perché è un po' raffreddato. L'importante è che il rock and roll rimanga. Ok, Mike, per te saremo Acqua, Aspirina e Rock and Roll per quest'oggi. Salutiamo anche il Fa e saluto anche Eugenio. Allora, oggi abbiamo Eugenio, è la seconda segnalazione di quest'oggi di presunto plagio da parte delle altre stazioni radiofoniche. Però Eugenio, cioè quella che non ho ancora detto, secondo me. Adesso cerchiamo di contattare il patentato 147, che è quello che controlla la concorrenza, e vediamo di chiarire con lui. La tua segnalazione invece adesso non voglio smontarti, ma non credo abbia un grosso fondamento. Eugenio ci segnala che, visto che il pulmista dove sta viaggiando ha sintonizzato la radio su Radio Italia a 1000, si è accorto che a Radio Italia ci hanno rubato l'almanacco. Ecco, in realtà un po' tutte le radio ci hanno rubato l'almanacco, ma quello glielo concediamo, via, dai, facciamo i signori. Grazie Eugenio per la segnalazione. Redazione, mi rintracciate Andrea 147? Doveva ascoltare 101, se non ricordo male, e poi devo girargli la segnalazione che è arrivata stamattina, Roba grossa, roba pesante, cadranno delle teste, io lo so! Stone Temple Pilots con il loro classicone Plush. 10 minuti alle 8, questo è Pane, Burro e Rock and Roll, un programma in parte costruito da noi e in parte costruito da voi là fuori, che vi affezionate alla causa. La nicchia vincerà, Davide contro Golia potrà, una piccola trasmissione radiofonica messa in onda in una radio con frequenze locali battere i grandi network. La risposta ve la daremo quando vinceremo, finché non vinciamo noi teniamo duro. Sicuramente è motivato da spirito di sacrificio il nostro patentato 147. Buona giornata Andrea. È uno sporco mestiere, ma qualcuno deve pur farlo. Ciao a tutti. Ciao. Allora, Andrea, per chi non lo sapesse, non ascolta Pane, Burro e Rock and Roll anche se volesse. Esatto. Perché ascolta la concorrenza e ci fa sapere. Prima di attaccare con l'intervento di oggi, dedicato, se non ricordo male, a R101, sì, che è la radio che studiamo questa settimana, devo segnalarti un paio di cose. Sì. Eugenio dice che Radio Italia ci ha rubato l'almanacco. L'almanacco. Praticamente tutte le radio ci hanno rubato l'almanacco. Esatto. Mentre segnalazione un po' più inquietante arriva da Fa, che ci fa sapere che nella puntata di ieri del programma andato in onda su Radio DJ in presenza degli Eli e le Storie Tese, Mangoni, il frontman di Eli e le Storie Tese, sembra abbia cantato una canzone dei Beatles in italiano. No, questo è grave. Questa è gravissima. Questo è molto grave. Infatti ti chiedo, e chiedo anche agli altri radioascoltatori, voi che siete capaci di smanettare e rintracciare i podcast sparsi nel web, se mi beccate la puntata di ieri e troviamo veramente che Mangoni ha cantato i Beatles in italiano, poi chiamiamo Elio e ce lo facciamo spiegare a telefono. Sì, ci facciamo anche risarcire, tra l'altro. E ci facciamo anche risarcire. Bravo, bravo. Hai sempre delle idee avanti, caro Andrea. mi piaci molto. Allora andiamo al sodo. Carta e penna, la prendiamo, la prendo io e la redazione, perché andiamo a studiare cosa combina il network R101. Vai! Allora, la R101 la mattina tra le 7 e le 10 trasmette la carica di 101. Tra le 7 e le 10? Tra le 7 e le 10. Quindi una cosa molto lunga che contiene però anche altre cose, non soltanto la trasmissione in sé, cioè c'è anche il telegiornale, ci sono momenti di informazione. E come si chiama la carica? La carica. La carica di 101, sì. E diciamolo, anche tanta pubblicità. Aggiungo io, fortunati loro, tra l'altro. Scusa, vabbè, gli ascoltatori meno, però. Lo so. Allora, i conduttori sono Paolo Cavallone, Sergio Sironi e poi c'è Massimo Lopez, che guarda, è sicuramente il conduttore. Io su Cavallone e Sinoni ne so qualcosa, perché li ho visti per tanti anni, che lavoravano qui nella nostra... In realtà lavoravano qui dal microfono dal quale ti sto parlando io adesso. Gliel'abbiamo rubato, tipo. Ma io ho letto che Paolo Cavallone dal 78 che fa radio e Sironi da 10 anni, quindi comunque sono entrambi... Non ero neanche nato. Mentre Lopez non lo conosco perché non era qua negli studi, si è aggiunto dopo. Ma facci sapere cosa fanno, dai, via! Allora, ma soprattutto, e soprattutto cosa possiamo copiare noi, visto che tutti copiano noi, iniziamo a copiare anche noi. Su quest'ultimo punto ieri penso che nessuno qua ci possa aiutare, perché in realtà io trovo che molte scopiazzano, eppure troppo. Dunque, diciamo che il tema delle trasmissioni fondamentalmente sono le imitazioni. Ci sono tanti personaggi che vengono imitati sia da personaggi esterni che da personaggi interni, che anche da Lopez stesso. Sì. E tra quelli più quotati, cioè che sono ricorrenti durante la trasmissione, durante la settimana, c'è, attenzione, Mike Buongiorno. Beh, vabbè, Andrea, Mike Buongiorno è uno dei personaggi più imitati della storia. No, ti sbagli, perché in realtà Massimo Lopez non imita Mike Buongiorno, secondo me imita Frick che imita Mike Buongiorno, perché è identico a Frick che imita Mike Buongiorno. Io non lo so. No, vabbè, Andrea, guarda, pensala pure così, mi informerò. Mi informerò, chiederò se veramente sentono Pane, Burro e Rock and Roll, ma dubito perché sono in diretta loro. Guarda, ti do un'altra prova. Vorrei chiederti come fai a intuire che non è un'imitazione di Mike Buongiorno, ma di Frick che imita Mike Buongiorno, ma non te lo chiederò. E ti chiederei di proseguire. Io ti fornisco una prova invece. Ah. Nel senso che l'imitazione di Mike, o meglio di Frick che imita Mike, è il gioco dell'onomastico. E quindi il collegamento è evidente, perché loro praticamente fanno un santo al giorno e poi un ascoltatore che si chiama con quel nome invia un messaggio o chiama, sì. Però qua c'è veramente un doppio, una doppia scoppiettatura, secondo me. Questo è un doppio carpiato, caro Andrea. Il tempo a nostra disposizione va a terminare, quindi ti chiedo di archiviare tutte le altre cose che ci volevi dire. Va magari bene. Facciamo un paio di interventi in più questa settimana. Non c'è problema. Fammi sapere di cordialmente, se sì. Mangoni ci ha copiato, questa volta gliela facciamo pagare. Assolutamente, assolutamente. Prendo nota. Ciao Andrea. Ciao a tutti. Che fai di bello? Beh, non lo vedi? Nascondo stuzzicadenti. Sì, ma cosa ci fai poi con tutti quegli stuzzicadenti? Lo sai solo te. Ho un piano per evadere. Ma dai, veramente? Racconta, Frigo, racconta. L'idea mi è venuta leggendo i classici greci. Con tutti questi stuzzicadenti costruirò un cavallo gigante, talmente grande che io e te, Rogna, ci possiamo nascondere dentro. Gli umani, affascinati dal mio splendido cavallo, lo prenderanno e una volta fuori dalla gabbietta scapperemo! Fico! Sarà il nostro cavallo di Troia! Cavallo di Troia? Sì, Rogna. Sai, Frigo, ecco, che tu andassi a Troia e potevo anche immaginarmelo, ma anche coi cavalli. Sei proprio un maniaco pervertito, lasciatelo dire. Eppure a me mi ci volevi mettere nel cavallo. Che delusione che sei, Frigo. Con pane, burro e marmellata inizia la giornata. Se ci aggiungi rock and roll